Eccoci con Roberto D'Alessandro per presentare Roma Comic Off dal 7 al 17 di settembre. Roberto, ben ritrovato su queste frequenze. Ben trovati a tutti, ciao Federico. Dici un po' che cos'è questa creatura? Beh, è il terzo anno, questa è la terza edizione del Roma Comic Off 2017, appunto. È un festival di teatro comico che si svolge nei teatri off della capitale. Abbiamo quest'anno 8 teatri con 14 sale, circa 50 compagnie, siamo alla terza edizione. Quest'anno abbiamo premi maggiori rispetto all'anno scorso, perché ci sta oltre al primo Teatro dei Servi. Ricordo che quest'anno nella stagione 2017-2018 del Teatro dei Servi ci sono 3 spettacoli addirittura nella Roma Comic Off 2016, perché il Teatro dei Servi prende nella sua stagione, vince uno spettacolo, ma quest'anno addirittura ne ha presi 3. Insomma, siamo contenti di servire da ascensore a questo piccolo mondo del teatro, in questa così humus della capitale, che sono i teatri off, che spesso non si sbocca in nessun modo, e noi serviamo a questo. E vengono anche direttori di teatri, critici, registi, produttori a vedere gli spettacoli, e in più ci sta il premio quest'anno 3570, che è la cooperativa 3570, ha messo a disposizione dei soldi, quindi si vengono anche dei premi in denaro. Senti, quanti sono i lavori coinvolti in questa terza edizione? Sono circa 50. Circa 50 spettacoli quest'anno. Sì. 50 compagnie diverse che provengono da tutta Italia, soprattutto ovviamente da Roma e provincia. Siamo molto contenti di questa terza edizione, che è un'edizione, io dico, di passaggio, perché ancora, benché facciamo domande e richieste di fondi a ovunque ci sia un bando possibile da fare, ma nessuno ancora ci ha dato una lira. Quindi, ma per fare queste cose ci servirebbero un po' di risorse. Speriamo che l'anno prossimo, invece, arrivato al quarto anno, si rendano conto che la cosa ha un senso, insomma. Ecco. Senti, i criteri di scelta per le compagnie e gli artisti? Il festival è inclusivo, come ho detto dall'inizio, non ci sono criteri di scelta, non c'è tanta selezione. Si può iscrivere chiunque, basta che non siano spettacoli razzisti, sessisti o contro la comune morale, eccetera, eccetera. Cioè, se non ci sono vincoli che impediscono in questo senso lo spettacolo, si può iscrivere davvero chiunque, basta che accettino le condizioni del bando e si può iscrivere chiunque. Cioè, io credo che uno dei guai dell'Italia sia stata esattamente la commissione che seleziona gli spettacoli in generale, o qualsiasi altra cosa, perché laddove ci sta una commissione che seleziona ci sta anche il vizio della corruzione e del clientelismo e del malaffare. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? I riferimenti web sono www.romacomicoff.it, c'è Roma Comic Off su Facebook, basta, là c'è abbastanza esaustivo. Poi a chiunque possa interessare basta cercare su un qualsiasi motore di ricerca Roma Comic Off e gli appariamo noi. Benissimo, allora ricordiamo le date dal 7 al 17, i luoghi sono, li ricordi tu Roberto? Teatro Petrolini, Teatro Testaccio, Teatro Antigone, Teatro dei Documenti, Teatro Porta Portese, Teatro mi sfugge qualcuno, ne mancano altri 3. Dei Servi, che l'avevi nominato all'inizio. Al Teatro dei Servi si vince e poi si va al Teatro dei Servi, il Teatro Superiore. questi sono teatri off, che nella categoria di Broadway sarebbero off, che sono sotto i 100 posti, insomma, fino a 100 posti sono considerati off a Broadway. Invece per noi sono teatri off. Invece il Teatro dei Servi è sopra i 200 posti, sarebbe off a Broadway, ma per noi è già un teatro di via di mezzo, ecco, non questi sarà a categorie superiori dove l'incasso può salire e quindi si può permettere spettacoli di altra tazza, diciamo. Benissimo. Poi chi ci sta ancora? Il Teatro Trastevere, il Teatro Tordinona, sono 14 sale in tutto. nei teatri off più interessanti e importanti della capitale partecipano a questo, in questa importante kermesse che è arrivata alla terza edizione. Perfetto. Roma Comic Off. Quest'anno sono orgoglioso di affidare, io la darò personalmente e in maniera assolutamente arbitraria, la Coppa Ulio Solinas, che è un attore che è venuto, un amico che è venuto a mancare un po' di anni fa, è un importante attore purtroppo, e quindi ho deciso di dare una coppa in suo nome, che si chiama proprio Coppa Ulio Solinas. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, grazie Federico, grazie dell'ospitalità che ci dai sempre sulla tua radio. A presto allora. Ciao, ciao Roberto, ciao. Un abbraccio, ciao.